24 settembre 2008. Nozze d'argento di Marilena e Claudio. A colei che scelse di farmisi compagna. Tu sai come limpide scorrano l'acque, là ove bina sorgente trovò pura il nostro trepido amore. Rime liquide han preso a sgorgare da sole, stillate dalla roccia che sai, a 10 soli dal tuo compleanno, il mattino di San Benedetto. Quelle mura, quelle scale, quelle sale, ricordi, spazi echeggianti d'ascetiche vite, evocanti sapienza e silente preghiera, accolsero il primo stupito, muto palpito di scoperta. Ma allora esistevi davvero? Gli sguardi dei figli, del sì dei nostri, dal futuro in attesa, cercare ancor non sapevo nel tuo, che regger arduo era allora per me, di cui presentito avevo misteriosamente l'inattingibile, altra femminea profondità. Trovare l'abbrivio all'amore sponsale in un luogo sì denso di risonanti silenzi, di monastici radi conversari, ove il tempo rallenta per trovare il suo ritmo più vero nel salmo, nell'inno, nel cantico che in coro da secoli se levano al cielo per tanti, per tutti. Fu cifra per tutta una vita, fu dono, sì, è vero. Monaco di Puglia, Filippo resta lieto, segno per noi pure di benedettina solarità. Ci scrutò sorridente camminare insieme la prima volta sull'ampio, lucente corridoio dell'istituto a noi galeotto. Accadde a novembre, a nebbia stagnante, le possenti cupole basilicali galleggiavano sul mare lattiginoso, densa foschia, ovattata di fredda luce, da lampioni e fari di pigre automobili cittadine. Cavallerescamente t'offersi un passaggio, accettasti. Ti lasciai a 100 metri da casa, declinando, prudente, l'invito ad entrare. Timore? Tu già forse vedevi che, fili flessibili, due esistenze singolari avrebbero potuto stringersi a treccia e accendere insieme di calda luce un domestico nuovo focolare. 3 mesi, e con un bacio ci donammo iridescente promessa, ciò che il volger torrentizio del tempo svelò poi a ciascuno. Furon gioie profonde e scogli affioranti da aggirare insieme. Ricordi la notte in cui aprimmo il cuore all'insondabile vita che accoglie, pulsando ogni concepimento umano, sentimmo d'esser stati resi forti, capaci, arco e freccia, di scoccare al futuro frecce umane scintillanti, d'amore e di vita novella, collaboratori riconoscenti del divino vasaio. Ne scoccammo 4, una salì dritta nel sole. I ritmi mutarono in fretta, 6 cuori, una casa, sapessi ridire in poesia versi di vita familiare gocciata per notti e giorni, per anni sui prati dell'ultima nostra giovinezza. Memoria è dilatazione di un cuore a quanto l'amore sottrae all'oblio. la tua di madre è di cometa. Se sempre riesci a stupirmi lanciando sicura la lenza nel lago di un tempo che a quello presente ancor non pare farsi lontano, all'amo il ricordo abboccante di gesta dei figli piccini cattura scintillanti caleidoscopiche trasparenze fresche di cronostoriche domestiche verità. 5 lustri di vita insieme, che posso cantare? La tua banica beltà di serena letizia intessuta s'è fatta nostra. Mi sono esposto al contagio di te come al sole, ineffabile seduzione. Voglia colui che in principio ci pensò, due in una carne sola, benedire con noi i figli, i parenti, i pochi ma splendidi amici, vicini e lontani, e colei che quinta dall'Oriente ci fu data in dono con lo sposo suo. Pure nel nostrano piccolo mondo di casa l'abbraccio universale di un'umanità di fratelli già s'è svelato, segno anticipatore del correr mirabil di tutto verso l'uno. Marocco, Perù, Vietnam ed Ecuador, Bangladesh e Ghana, Polonia e Canada, riuscirai a contare, mia bella, oggi le labbra beneauguranti al cielo il nostro nome.